conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Buonasera e bentornati a questa nuova serie di puntate che Radio 24 ha deciso di dedicare alla storia dell'economia. Vi proporremo nel nostro appuntamento del sabato sera argomenti, temi e riflessioni che ci vengono offerti dall'attualità, da libri ed eventi connessi con l'economia, per andare insieme indietro nel tempo, così da ricavare spunti utili ad aiutarci a comprendere i fenomeni complessi con i quali ci troviamo a confrontare pressoché quotidianamente. Partiamo questa settimana da un argomento di strettissima attualità, quello del cosiddetto conflitto tra generazioni. E ascoltiamo questo passaggio tratto dal rapporto annuale dell'Istat del 2016 dedicato alle trasformazioni demografiche e sociali. La prima è la generazione della ricostruzione, costituita dai nati dal 1926 al 45, grande protagonista del secondo dopoguerra. Seguono le generazioni del baby boom, al cui interno si possono identificare due sottogruppi tra loro molto diversi: la generazione dell'impegno, protagonista delle grandi battaglie sociali e trasformazioni culturali degli anni 70, e quella dell'identità, per appartenenza politica o per una visione orientata alla realizzazione di obiettivi personali. La generazione di transizione segna il passaggio tra il vecchio e il nuovo millennio. I suoi membri sono cresciuti tra la fine del blocco sovietico e l'allargamento a est dell'Unione Europea. Sono entrati nel mondo del lavoro con più lauree e master dei propri genitori, ma sono anche i primi a subire le conseguenze della recessione, con minori opportunità di lavoro, sia in termini di quantità sia di qualità. I cosiddetti millennial sono entrati nella vita adulta nei primi 15 anni del nuovo millennio, quindi orientativamente i nati negli anni 80 e fino alla metà degli anni 90. Sono la generazione dell'euro e della cittadinanza europea, ma anche quella che sta pagando più di ogni altra le conseguenze economiche e sociali della crisi. Infine, i più giovani, indicati come la generazione delle reti, costituita da coloro che sono nati e cresciuti nel periodo in cui le nuove tecnologie informatiche si sono maggiormente diffuse e hanno quindi percorso tutto o buona parte del loro iter formativo nell'era di Internet, il che li connota per essere sempre connessi con la rete. Se questo è il quadro che caratterizza le nuove e le vecchie generazioni, ormai sembra purtroppo acquisito che le attuali giovani generazioni sono destinate, per la prima volta dal secondo dopoguerra, a stare peggio delle generazioni che le hanno precedute, con pesanti ricadute sull'intero sistema di sicurezza sociale e sulle pensioni future. Allora, di questi temi discutiamo questa sera con Enrico Giovannini, economista, portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile ed ex presidente dell'Istat. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera. Allora, la generazione e il conflitto tra generazioni, che ne pensa? Ma è in corso, non c'è dubbio, e il modo con cui l'Istat in poche battute ha ricordato l'evoluzione degli ultimi 60-70 anni mostra in modo molto efficace i cambiamenti che sono avvenuti. Oggi questo conflitto tra generazioni si realizza attraverso tre elementi. Uno l'avete ricordato, cioè la difficoltà per i giovani di trovare lavoro, ed è una difficoltà che si riflette in un tasso di disoccupazione giovanile molto alto, oltre tre volte quello medio della popolazione. Il secondo aspetto è il fatto che, visto un sistema piuttosto generoso, pensionistico, utilizzato fino a 15 anni fa, le generazioni che lavorano oggi sono gravate dal peso del pagamento delle pensioni degli anziani. E questo meccanismo in futuro potrebbe essere ancora più difficile a causa dell'andamento demografico, perché c'è un invecchiamento in corso, quindi ci saranno meno giovani che dovranno mantenere più anziani. Il terzo aspetto viene invece poco ricordato. C'è stato uno spostamento drammatico in tutti i paesi più sviluppati dell'area OCSE, ma particolarmente in Italia, perché 25 anni fa l'incidenza della povertà era soprattutto concentrata nell'età anziane, mentre tra i giovani era molto bassa. Oggi l'incidenza è molto alta tra i minori, tra le persone giovani che sono sul mercato del lavoro, ed è invece molto bassa negli anziani. Quindi c'è stato uno spostamento della ricchezza a favore degli anziani, che naturalmente ha degli effetti importanti sulla società e sull'economia. Ecco, questo quadro ci porta alla necessità di fare interventi già con le prossime manovre di bilancio per potenziare, come dire, la dote finanziaria in direzione del sostegno all'occupazione giovanile. Ritiene che ci siano questi margini, professor Giovannini? Tutto il sistema pensionistico si regge su un'ipotesi di crescita del prodotto interno lordo. Nel sistema contributivo il trattamento dipende non solo da quanto uno ha versato, ma dal ritmo di crescita dell'economia. Se il ritmo di crescita è abbastanza elevato, ci saranno sistemi per pagare le pensioni del futuro. Se invece è basso, il sistema non è in equilibrio, e questo vale in media. Dopodiché sappiamo che a causa dell'automazione di altri fenomeni, già adesso in parte i ragazzi entrano più tardi sul mercato del lavoro, quindi avranno un numero di anni per i quali potranno pagare i contributi più bassi di quello che hanno fatto i loro genitori, ma soprattutto avranno delle vite lavorative discontinue. Sì. E quindi non è detto che riusciranno a versare sufficienti contributi per avere pensioni dignitose. Se lei poi mi chiede le indiscrezioni, sì, sulla riforma o comunque sul contributo ai giovani per le pensioni, mi è difficile capire la ratio di questa misura, visto che nel frattempo è stato creato il REI, cioè il reddito di inclusione, certo, che assicura che chiunque povero, in futuro soprattutto perché oggi le risorse sono limitate, sarà comunque aiutato indipendentemente dall'età. Certo. Quindi... E quindi non capisco perché a questo si debba aggiungere eventualmente un intervento per le pensioni dei giovani tra 20-30 anni. Già, perché poi il problema, al di là delle quantità, è anche della qualità delle scelte, perché se, come abbiamo ricordato, i più giovani sono la generazione delle reti, cioè quella costituita da quanti sono nati e cresciuti nel periodo in cui le nuove tecnologie informatiche si sono diffuse, e allora qui bisogna trovare delle risposte adeguate, perché sennò, come dire, i nuovi orizzonti di occupazione si fanno evanescenti, un po' rarefatti. Non c'è dubbio, soprattutto in un paese che investe pochissimo in formazione. Sì. Noi abbiamo una quota di laureati nettamente inferiore a quella degli altri paesi europei, una quota di imprese che fanno formazione ai loro dipendenti molto bassa rispetto agli altri paesi, e anche nelle grandi imprese, che sappiamo in Italia ce ne sono relativamente poche, si investe poco in capitale umano. Allora, piuttosto che prendere, come dire, atto e rinunciare all'idea che sia possibile per i giovani di oggi formarsi e trovare dell'occupazione, magari costruire nuove imprese che faranno crescere non solo loro ma l'economia del paese, io credo che dovremmo investire esattamente in questo. Quindi io mi auguro che la prossima legge di bilancio vada in questa direzione, piuttosto che, magari per motivi elettorali, promettere qualcosa che avrà effetto in realtà tra 20-30 anni, mentre è nei prossimi 20 anni che noi dobbiamo aumentare il cosiddetto tasso di crescita potenziale dell'economia, che molto dipende dalla formazione e dal capitale umano. Un'ultima questione, professore, ha a che fare con le statistiche. Gli ultimi dati dell'Istat relativi al mese di luglio evidenziano un incremento degli occupati e anche della disoccupazione. Allora, spesso si fa fatica, soprattutto dal grande pubblico, a capire come leggere questi dati. Ci aiuta a capirli? Ma questo è un classico effetto che viene descritto nei libri di macroeconomia. Sì. Cioè, durante la recessione, la crisi, molte persone, sapendo di non poter trovare lavoro, non lo cercano neanche. Mm-hmm. E quindi diventano inattivi, e quindi non contribuiscono a formare il tasso di disoccupazione, che misura il numero di persone che cercano attivamente lavoro. Sì. Rispetto alle forze di lavoro. Quando invece l'economia riparte, come la fase attuale, allora ci sono persone che si presentano sul mercato del lavoro e vengono contate quindi come disoccupate. Quindi il fatto che aumenti insieme il numero di occupati e il tasso di disoccupazione non deve sorprendere. Sì. Quello che però è stato un po' forse oscurato in questo dibattito, anche grazie al giusto entusiasmo, se vuole, delle forze politiche che hanno guidato, insomma, questa ripresa in questi anni, e che forse bisognerebbe guardare ai dati della contabilità nazionale, che è quella che poi sottostà al PIL. Mi spiego. I dati mensili che l'Istat pubblica sono calcolati in termini di teste, cioè di persone che hanno un lavoro. Ma la stessa Istat calcola altre due misure dell'occupazione, una considerando anche l'economia sommersa, l'altra in termini di unità di lavoro. Mi spiego, se due persone lavorano a metà tempo fanno due teste, due occupati, ma solo una unità di lavoro, certo, standard. Bene, mentre il numero di occupati, anche considerando l'economia sommersa, sta tornando al livello anticrisi, il numero delle unità di lavoro, questa unità standard, è ancora di 1 milione inferiore al livello pre-crisi. Certo. Questo vuol dire che l'occupazione che si sta creando, al di là della occupazione a termine o a tempo indeterminato, come si dice, è anche un'occupazione frammentata. Perché quando si vanno a sommare per creare queste unità standard, il numero è molto inferiore a quello pre-crisi. Quindi sul mercato del lavoro stanno accadendo importanti cambiamenti che certamente ci devono far gioire in termini di numero di persone coinvolte nell'occupazione, ma che nascondono appunto una fragilità che deve in qualche modo richiamare la politica anche a migliorare queste condizioni, magari favorendo il part-time involontario, ma in qualche modo sfavorendo il part-time involontario. Certo, grazie professor Giovannini per essere stato con noi questa sera e averci aiutato a comprendere anche queste complessità della statistica. Buona serata, grazie ancora. Grazie a lei.